Mi muovo piano piano, ti sfaccetto, ti esploro le facce, ti palpo meditabondo, ti volto e rivolto, variando, ti tremando, ti tormento tremendo.